Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. L'autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l'anno per il gran finale. Loren De Stefano. Buona ultima domenica d'estate, ben ritrovati in giardino, dove ci prepariamo a goderci la seconda primavera dell'anno, che inizierà dopodomani, il 22 settembre. Domenica scorsa il maestro giardiniere Carlo Pagani ci ha rivelato che l'autunno è la sua stagione preferita, per quanto sa offrire nell'orto, in giardino, nel frutteto e anche, pensiamo ai colori, nei parchi e in foresta. Ma l'autunno può regalare molto anche a chi un giardino non ce l'ha. Oggi dunque ci concentriamo su davanzali e balconi, perché le piante e la natura possiamo godercele anche stando in appartamento. Settembre è il mese della ripartenza ed è il momento per riportare a nuova vita casa nostra, dove ormai spesso anche lavoriamo, e cosa c'è di meglio delle piante? Fiori profumati, come quelli della gardenia, ci aspettano anche se è settembre, così come le inebrianti aromatiche. Per trovare nuove piante e fiori facciamo un giro per le mostre mercato, una per esempio si terrà nel Piacentino il weekend prossimo in un parco storico, sto parlando di Verde Grazzano, a Grazzano Visconti. Oppure andiamo in visita nei vivai e nei garden center, e in quelli ECG in particolare ci saranno le proposte unite dei labirinti sensoriali del Garden Festival d'autunno. Cosa troveremo? Ce lo facciamo spiegare subito. L'autunno è talmente innamorato dei tramonti da dipingerne uno su ogni singola foglia. Massimo Lopilato. Bentornato al Giardino Segreto Davide Michelini, vicepresidente di ECG, l'Associazione Italiana Centri Giardinaggio. Buona domenica, Davide. Buona domenica Roberta, buona domenica a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati. Molto è cambiato da quanto ci siamo sentiti l'ultima volta, ti ricordi sotto lockdown tutti i garden e gli vai erano chiusi, le piante abbandonate, un momento di grande amarezza, però molto è cambiato. È vero, sì, è vero, sembra un secolo fa, il mese di marzo, quando in pieno lockdown c'erano fosche nubi su tutto il settore florovivaistico. In realtà poi fortunatamente lockdown è finito, c'è stata questa ripresa, questa corsa al verde, alle piante. Abbiamo scoperto un po' tutti quanto può essere importante il verde, le piante, quanto ci possono aiutare psicologicamente per tenere duro, andare avanti, ad avvicinarci sempre di più alla natura. Oggi siamo alla vigilia dell'autunno, entriamo in questa stagione meravigliosa dove veramente ogni garden center può fare tantissimo per regalare emozioni agli appassionati. E anche l'autunno può fare tantissimo per fare regali a chi ama le piante o anche soltanto a chi si sta avvicinando ora. L'autunno regala moltissimo ed è sottovalutato spesso, però bisogna dire che quest'anno abbiamo in qualche modo perso la primavera, per cui gioco forza, dobbiamo recuperare in questa stagione che molto può donare in tema di colori, di profumi, anche di fioriture. E non mi riferisco soltanto ai crisantemi, ai settembrini, di cui peraltro abbiamo parlato settimana scorsa con il maestro giardiniere Carlo Pagani. L'autunno può offrirci anche fiori che di solito godiamo in altre stagioni. Per esempio, tu ci insegni la gardenia. È vero, l'autunno ci regala veramente emozioni in giardino e fioriture di ogni tipo, anche di piante che solitamente non siamo abituati ad accostare all'autunno. Per esempio, tra le gardenie troviamo questo gruppo di gardenie rifiorenti che sono davvero eccezionali, sia per la loro fioritura prolungata che si protrae fino al mese di ottobre inoltrato, sia per la loro rusticità e quindi facilità di coltivazione rispetto alla classica gardenia jasminoide. Vedi, quindi ci possiamo godere anche il profumo che è ineffabile della gardenia anche in questa stagione, ma sono degli ibridi, come si chiamano queste gardenie, chiamiamole autunnali? Ci sono principalmente tre varietà, diciamo le più conosciute, appartengono diciamo alla macrospecie delle Gardenia germinoides, però in realtà si differenziano come portamento, hanno una foglia un po' più grande, sono un po' meno compatte, sono un pochettino più rustiche e alla fioritura molto profumata, il profumo unico della gardenia, uniscono la loro caratteristica di sopportare di più terreni non propriamente acidi, a differenza della gardenia classica, ed esposizioni anche meno ombrose, quindi la possiamo mettere anche in situazioni di mezz'ombra con magari una parte al sole. E le varietà principalmente sono tre. C'è una varietà dal profumo antico, perché è a fiore semplice e si chiama Sweet Earth, e poi altre due, tra cui la Crown Jewel e la Summer Snow. Queste a fiore doppio. Crown Jewel, Summer Snow. Crown Jewel, il gioiello della corona, la neve estiva, che nomi poetici, e il dolce cuore, Sweetheart. Comunque basta chiedere gardenieri fiorenti e ci comprendono. Sì, gardenieri fiorenti, se poi abbiamo voglia di ricordarci questi meravigliosi nomi, la Crown Jewel ha la foglia un pochettino più piccola, la Summer Snow ha la foglia già più grande, e la Sweetheart, dolce cuore, a fiore semplice, quindi fa vedere proprio il centro del fiore. Quindi gardenie che ci danno fiori più a lungo, che sono più rustiche, insomma più facili da coltivare, che non devono essere all'ombra ma insomma vanno bene anche al sole. Direi che sono costruiti questi ibridi per i cittadini che sono alle prime prese con questi fiori. Io devo dire che una gardenia jasminoides normale mi fa continuamente dei boccioli, ma cadono prima della fioritura, appena si vede il bianco, perché la gardenia jasminoides è un po' più delicata. Sì, questo purtroppo è uno degli inconvenienti che nella coltivazione della gardenia può succedere. Spesso ciò è dovuto da squilibri idrici a livello di irrigazione o magari da anche un eccesso di irrigazione, perché la gardenia ama un terreno umido, fresco, quindi vuole un'irrigazione piuttosto costante, ma non tollera gli eccessi idrici. Un'irrigazione esagerata può provocare questa cascola dei boccioli che ci può privare della sua splendida fioritura. Ci illude, il bocciolo sembra che si apre e poi cade. Oh, abbiamo avuto il consiglio di Davide Michelini, quindi equilibriamo bene l'annaffiatura per quanto riguarda la gardenia tradizionale e accostiamola alle gardenie nuove. Quello che ci hai detto delle gardenie rifiorenti vale anche per l'altro fiore della primavera, l'azalea? Sì, abbiamo delle selezioni di azalee, tra cui la selezione Encore e la selezione Bloom, all'interno delle quali esistono diverse varietà, quindi tanti colori, che esattamente come per queste gardenie rifiorenti hanno la caratteristica di essere molto più rustiche, nel senso che si adattano di più al terreno non propriamente acido e si adattano di più ad esposizione anche soleggiata. Quindi anche l'azalea, con le sue meravigliose fioriture che siamo abituati a vedere a maggio, in realtà possiamo goderne della bellezza anche nel mese di settembre-ottobre. Quindi con la gardenia Sweetheart o Crown Jewel o la Zalea Encore abbiamo già nuovi fiori nei nostri vasi settembrini, però vogliamo anche un arbusto. Che cosa ci proponi per quest'autunno? A me piace tantissimo giocare e divertirmi ad accostare le diverse colorazioni delle foglie dei diversi arbusti e, rimanendo sui toni dell'azzurro, del glauco, mi sento di consigliare ai radioascoltatori l'Eucalyptus gunni azzura. Eucalyptus azzura è una varietà di eucalipto molto compatto, con una foglia piccola, che si presta ad essere coltivato in vaso. Ha un colore, veramente il colore dell'eucalipto, ma molto intenso, quindi un azzurro penetrante, veramente bello da accostare con fioriture o con foglie magari di un verde lucido, e quindi creare dei giochi di colore anche solo col fogliame. E poi naturalmente profumatissimo come l'eucalipto. L'Eucalyptus azzura per quale esposizione va bene? Assolutamente al sole, ma anche a mezz'ombra se la cava bene, senza esagerare con le irrigazioni, perché comunque la pianta australiana, l'eucalipto, quindi non vuole troppa acqua e ha la caratteristica di sopportare anche temperature molto basse, quindi è assolutamente resistente al freddo. L'eucalipto in Australia è gigante, colossale, e noi possiamo portarne un tipo in vaso, è un'occasione da non perdere. Hai parlato del profumo dell'eucalipto, vabbè, allora non possiamo non citare le erbe aromatiche. assolutamente sono protagoniste nel mese di settembre. Tra le erbe aromatiche ce ne sono veramente tante. Poi io vengo dalla Liguria, il ponente savonese rappresenta forse il distretto produttivo di piante aromatiche in vaso più importanti al mondo. All'interno di queste specie mi piacerebbe parlarvi dei timi, del genere Timus, perché ce ne sono veramente tanti, dal Timo citrodorus, il cosiddetto timo limonato, no? Che ha questo profumo che ricorda gli agrumi, all'interno del quale esistono diverse varietà di colore, dal giallo dorato al variegato di verde, al variegato più chiaro, diverse sfumature, sempre con questo profumo agrumato e la caratteristica di essere piante tapezzanti. Poi c'è il timo serpillo. Il timo serpillo ha sempre la caratteristica di essere una pianta coprisuolo, quindi in aiuola va benissimo, ma anche dalle dimensioni contenute, quindi da coltivare in vaso, fino ad altre varietà di timo, come il classico, che lo possiamo usare in cucina. E quindi all'interno del genere timo abbiamo tantissime varietà. È un mondo, il timo profuma, il timo decora, il timo lo possiamo usare nei piatti, ma anche delle capacità curative eccezionali. Ne abbiamo parlato in un appuntamento del Giardino Segreto dedicato alle erbe aromatiche. Invito a riascoltare quella puntata perché il timo è curativo, insomma fa bene anche al nostro sistema immunitario. Assolutamente sì, sì, uno dei più potenti antibiotici naturali e ha tante altre proprietà. E che bello sarebbe creare sul nostro terrazzo un piccolo labirinto di erbe aromatiche, no? Un percorso sensoriale. Cosa che succederà peraltro nei Garden Center ICG, tra poco ne parleremo. Ci saranno a disposizione anche dei labirinti di fieno, di paglia. Ma vorrei farti questa domanda, qual è la differenza tra il fieno e la paglia, Davide? Diciamo che il fieno veniva utilizzato come alimento per il bestiame, mentre la paglia veniva utilizzata, diciamo la parte meno appetibile, veniva utilizzata anche solo semplicemente per fare le lettiere per gli animali, no? Per dove gli animali poi si adagiavano nelle stalle. Quindi diciamo la parte nobile del foraggio diventa fieno, la parte che rimane più grezza è la paglia. E ci sarà anche il profumo del fieno e i colori dell'autunno nei Garden Center d'Italia, grazie al Garden Festival d'autunno fino al 18 ottobre, giusto? Esattamente, un mese di piante diverse, un mese di colore, un mese di profumi con tanti accostamenti e cose che poi, come hai detto bene tu, si potranno ripetere anche semplicemente sul balcone, sui terrazzi, quindi accostamenti e racconti di piante a portata di appassionato. Non serve avere grandi spazi per emozionarsi con le piante autunnali. Ma stiamo parlando di piante italiane? Sì, assolutamente, piante italiane perché sono il cuore del progetto di ICG che va avanti da più di un anno, che si chiama Piantiamo Italiano, e mese per mese racconta al mondo del florovivaismo italiano, dei vari distretti florovivaistici di tutta Italia, e a settembre sarà il turno delle piante aromatiche, che sono un'eccellenza italiana esportata in tutta Europa, in tutto il mondo, e quindi si parlerà del distretto della Liguria, della Puglia, del Veneto e della Toscana. Poi a ottobre sarà l'ora parleremo e metteremo in mostra le siepi e le erbe topiarie, soprattutto i distretti floristici della Toscana, delle Marche e della Lombardia. È un viaggio itinerante che vuol far conoscere le eccellenze floristiche del nostro paese, esportate in tutto il mondo, conosciute in tutto il mondo, e come Garden vogliamo fare la nostra parte per valorizzarle e farle conoscere. Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain come tumbling down. Ci ritroviamo tra un attimo al Giardino Segreto all'interno di Labirinti Sensoriali. Il Giardino Segreto. Nella giovinezza si cerca, invece dell'uscita, l'entrata del labirinto. Fabrizio Caramagna. E l'entrata dei labirinti possiamo cercarla fino al 18 ottobre nei Garden Center, in questo caso ICG, labirinti sensoriali ideati per il Garden Festival d'autunno e che, avendo spazio, possiamo emulare. Ogni pianta è una lampada. Il profumo è la luce. Victor Hugo. Ben trovata al Giardino Segreto a Enrica Raganato del direttivo ICG. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buona domenica. I Garden Center ormai da tempo hanno ripreso la loro attività a pieno ritmo, anzi forse anche un ritmo accelerato per fortuna dopo lo stop subito come tutti del resto durante il lockdown. Per i vivaisti è stato particolarmente drammatico, appunto trattandosi di esseri viventi, però c'è da dire che questo lockdown, come stiamo ripetendo ormai di domenica in domenica, ha davvero riacceso una voglia di verde, una voglia di piante, una voglia di natura nelle persone che vogliono circondarsene. Quindi nei Garden Center ICG è pronta, diciamo, un'accoglienza, Enrica Raganato, per accogliere al meglio questo autunno in verde. Sì, contiamo tantissimo sul fatto che quest'anno l'autunno più che mai sia una seconda primavera, dopo appunto una primavera, un marzo ed un aprile di lockdown e di chiusura forzata dentro casa. Nei mesi di marzo ed aprile, quando i nostri punti vendita erano chiusi o potevano gestire soltanto le consegne a domicilio, comunque abbiamo scoperto quanto le piante possano aiutare gli uomini a ritrovare proprio un contatto con la natura e a trovare un benessere che noi conoscevamo, ma che forse non era così diffuso nel consumatore e nel consumatore finale, ecco. E l'autunno può offrire molto da un punto di vista di piante, fiori, persino ortaggi, ma può offrire molto anche da un punto di vista sensoriale. E in qualche modo c'è questo obiettivo di stimolare da questo punto di vista gli ospiti dei Garden Center. Sì, il Garden Festival d'autunno è stata pensata già prima degli anni del Covid, era stata pensata proprio per promuovere la bellezza mai banale della natura in autunno, che molto spesso viene sottovalutata. In realtà è la stagione in cui fare giardinaggio e in cui tantissime piante cambiano il loro colore o producono delle pannocchie fiorite, delle infiorescenze che hanno mille sfaccettature, suoni e profumi particolari. E abbiamo pensato che diventi una grande festa dentro ai nostri vivai. I centri giardinaggio aderenti organizzeranno questi labirinti sensoriali. Ci siamo rifatti ad una tradizione tutta americana e canadese che, nel festeggiare Halloween, prepara appunto, utilizzando ballette di fieno oppure il mais appena raccolto oppure ballette di paglia e altre piante, fanno questi labirinti che sono dei momenti di gioco e di convivialità per tutta la famiglia insieme, dove poi vanno ad acquistare anche le zucche. Abbiamo voluto portare questa tradizione nei nostri centri giardinaggio per dire: cerchiamo di stare all'aria aperta, cerchiamo di stare vicini ma non troppo, in totale sicurezza, e di gioire dei sensi allertati dall'autunno. E quindi i nostri soci costruiranno questi labirinti, all'interno del quale ci saranno delle vetrine sensoriali, e quindi andremo ad organizzare l'esposizione delle piante particolarmente belle fra loro per i cromatismi accentuati che assumono durante l'autunno, oppure organizzeremo vicine delle piante che stimolano il gusto, perché magari sono frutti minori oppure alberi da frutto che donano dei frutti incredibilmente saporiti. Organizzeremo un'altra vetrina dedicata invece all'olfatto, dove esporremo delle piante aromatiche fatte in Italia, oppure ancora un altro senso che potrebbe essere allertato è quello del tatto, perché le piante sono belle anche da accarezzare, e scoprendo quanto vellutate siano oppure quanto lanceolate possano essere altre foglie. Non ultimo il senso dell'udito. Penso ad esempio ad un'erica gracilis che è fatta di piccolissimi fiori a campanella. Se la si scuote oppure il vento, ancora più romanticamente, ne muove le fronde, si sente un leggero suono secco ed evocativo. Insomma, questi labirinti sensoriali sono fatti per dire: stare insieme in mezzo alla natura fa stare meglio, chiudere gli occhi oppure immergersi nel profumo del fieno appena tagliato dà una sensazione di benessere e poi si possono scoprire tantissime piante utili. Intorno al profumo del fieno ci sono mille storie di apprezzamento, di poesia, il profumo del fieno sembra avere doti quasi magiche e chi non l'avesse mai provato può approfittarne nei garden center di ICG, ma tutti avranno un labirinto sensoriale. Quanti sono i vostri garden center? I garden center dell'associazione sono più di un centinaio. Quelli che aderiscono al Garden Festival d'autunno sono indicati nel nostro sito www.icg.it. Supereremo sicuramente gli 80 garden center aderenti distribuiti un po' in tutta Italia. Ognuno farà la sua interpretazione del labirinto d'autunno, chi in spazi davvero molto ampi, chi in spazi più ridotti, ma comunque ci sarà un invito e l'occasione di lasciarsi incantare all'interno di questi labirinti. Il labirinto di Enrica Raganato nel suo Garden Center Il Germoglio nel Veneziano come sarà? Allora, abbiamo dedicato uno spazio di 9 metri per 9 metri, utilizzeremo delle ballette di fieno proprio come fossero dei mattoncini e quindi sarà alto in esterno in maniera tale che non si veda il percorso all'interno. Ci sono queste 4 stanze, vetrine dove ci sono le piante appunto da gustare a seconda del senso, all'interno un piccolo spazio, un divano per chiudere gli occhi e magari farsi un selfie e condividerlo, e sarà ripreso da un drone e dall'alto proprio per rendere un omaggio anche se vogliamo all'arte dei labirinti, ma in generale all'arte topiaria italiana. Alterneremo anche delle piante tipiche della nostra Toscana e quindi insomma sarà un'esperienza da vivere. Il tutto fino al 18 ottobre, grazie Enrica Raganato. Grazie a voi, buona domenica. Perché vuoi combattere contro il labirinto? Assecondalo per una volta. Non preoccuparti, lascia che sia la strada a decidere da sola il tuo percorso e non il percorso a farti scegliere le strade. Impara a vagare, a vagabondare. Tiziano Scarpa. Questo pensiero di Tiziano Scarpa l'abbiamo già sentito nella puntata del Giardino Segreto del 21 giugno scorso, dedicata per la gran parte al labirinto più grande del mondo, fatto interamente di bambù, che abbiamo in Italia, nel Parmense, a Fontanellato. Il labirinto dell'Amazone si chiama. Un giardino di siepi in cui perdersi e ritrovarsi, del quale dobbiamo ringraziare Franco Maria Ricci, scomparso 10 giorni fa, a 83 anni. Collezionista, grafico, designer, bibliofilo, editore, ha lasciato appunto, tra le altre cose, questo magnifico labirinto verde che possiamo visitare ancor meglio in autunno, visto che ad ottobre offrirà Under the Bamboo Tree, un mese di incontri, convegni, installazioni e laboratori interamente dedicato al bambù. Se volete riascoltare l'intervista dedicata al labirinto dell'Amazone per prepararvi alla visita, cercate in radio24.it oppure nelle tante piattaforme podcast la puntata del Giardino Segreto del 21 giugno scorso intitolata Labirinti Urban Jungle, perdersi tra le piante. Io vi aspetto domenica prossima, sempre alle 15.30 oppure in podcast. Grazie per essere stati in giardino con me anche oggi. Una buona settimana da Roberta Pellegatta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.